America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, domani avremo delle primarie ancora in West Virginia, in Nebraska, ma posso dirvi che non parlerò più di primarie a questo punto, beh, magari così, giusto per onor di cronaca, ma quel processo è finito e dunque voglio dedicare la copertina di questa settimana al nuovo capitolo di queste elezioni americane e soprattutto a un evento particolare, molto atteso in campo repubblicano, perché ormai stiamo parlando solo di campo repubblicano. L'evento atteso è l'incontro programmato giovedì tra Paul Ryan, presidente della Camera, e Donald Trump, candidato per la nomination repubblicana. Qual è il problema? Che Ryan ha detto che non appoggerà Trump. Ryan sarà il presidente della convention repubblicana di Cleveland e Trump ha detto che non appoggerà mai l'agenda di Ryan e che se per caso dovesse essere eletto presidente, beh, Ryan dovrà dare le dimissioni dalla presidenza della Camera. Insomma, il partito repubblicano è spaccato e questa seconda fase, che doveva essere un passaggio verso l'unità, devo dire, non comincia bene. Well, with respect to the Republican process and Mr. Trump, I just want to emphasize the degree to which we are in serious times and this is a really serious job. Ecco, l'attacco a Trump, questo è un fatto molto curioso, non viene solo dal campo repubblicano. Incidentalmente devo dirvi che ho parlato con molti repubblicani, i quali sono tutti assolutamente schierati contro Donald Trump in questo momento. Un commento molto interessante che ho avuto da un autorevole commentatore repubblicano, direi quasi un ideologo del Partito Repubblicano, è che qui il primo passo verso l'unità lo deve fare Donald Trump. È lui il leader che deve conquistare la base. È lui perché ha vinto la nomination soltanto con il 39% dei voti. Beh, questo vuol dire che resta almeno un 61% di repubblicani che sono contro di lui. E dunque non può pretendere Trump che siano questo 61% che va verso di lui. Ma conoscendolo, non so quanto sarà pronto a piegarsi, tra virgolette, ai voleri di quell'establishment contro cui ha combattuto la sua battaglia elettorale e contro cui alla fine ha vinto. E dunque, tornando alla dichiarazione di Obama, che cosa dice? Beh, il presidente ha fatto un commento, dice: i repubblicani dovranno cercare nel profondo del loro animo e capire se Donald Trump li rappresenta, quali sono i loro valori, ci sono ancora. Non c'è dubbio che qui è successo qualcosa. In effetti, qualcosa è successo davvero, si è rotto un meccanismo all'interno di un partito che era una colonna della democrazia americana. Abbiamo dunque un partito repubblicano che è spaccato per sempre? C'è la fine di una coalizione, quella che teneva insieme i conservatori sociali, gli evangelisti, i fiscal conservative? Chi sono davvero i repubblicani di oggi? Chi li rappresenta? Per questo dedico la copertina all'incontro di giovedì, perché quell'incontro potrebbe essere risolutivo. Si capirà se c'è, diciamo, la possibilità di un compromesso. Il problema è che il New York Times, per esempio, durante il fine settimana ha detto che questo compromesso non sarà possibile, perché le differenze fra i due sono troppo grandi. Dunque, chi è che oggi rappresenta il Partito Repubblicano? Paul Ryan, che è il presidente della Camera, Donald Trump. E qui mi ricordo dello storico Arthur Schlesinger, che aveva identificato dei cicli di circa un quarto di secolo nella politica americana. E se ci pensiamo, i tempi, soprattutto se partiamo dalla rivoluzione reaganiana, più o meno coincidono. C'era bisogno di un rinnovamento. Però Higgins mi dice che cosa? Dice: beh, oggi è troppo presto per giudicare, ci sono troppe cose in movimento e non sappiamo ancora se quello di Trump sarà un successo o un fallimento. Le perderà queste elezioni? Beh, devo dire che al di là del sensazionalismo eccitato per questo reality show che entra in politica, Donald Trump spaventa soprattutto per l'ignoranza con cui parla di politica economica e finanziaria. L'ultima uscita, beh, dice, si potrebbe rinegoziare il debito americano. Se le cose vanno bene, ok, ma se vanno male, ecco, il problema è che Trump non si rende neppure conto dell'effetto catastrofico che una dichiarazione di questo genere avrebbe sui mercati globali se la facesse da presidente. Eppure ci sarà qualcuno per strada che dirà: bravo Trump, fatti fare lo sconto dai cinesi che barano sul cambio, ci rubano i segreti industriali e ci strappano i posti di lavoro. Insomma, populismo all'ennesima potenza, non certo l'America che abbiamo sempre conosciuto. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!